È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. E buonasera, buonasera a tutte, siamo ancora una volta qui con voi, Rosina, Claudia e la nostra ormai stoica ed immancabile Caterina, the voice number one, che anche stasera ci fa l'onore di partecipare alla nostra calamità in veste di infallibile tecnica del suono e quindi ci solleva così dalle gravose responsabilità tecnologiche che, come è noto, ci hanno irrimediabilmente tediato negli anni scorsi e probabilmente continueranno a farlo in quelli a venire. Trasmissione numero 88, se non erro, è una trasmissione, possiamo dire, leggera, quella di questa sera, con qualche notizia, alcuni spunti di riflessione, musica e curiosità sull'onda della nostra ormai consueta organizzazione radiofonica. Però non togliamo ancora spazio alla musica e cominciamo proprio con questa per rilassarci un po', prima di cominciare a parlare delle cose che ci interessano e che speriamo interessino anche voi. Quindi ascoltiamo il primo brano musicale della serata. E Leanne Rimes, il titolo è I Need You. Buon ascolto. Yeah. Ciao a tutte da Claudia, ben trovate. E iniziamo con un brano, un intervento che ho scritto vista la situazione internazionale che mi coinvolge molto da vicino. Allora, la cultura di morte di cui l'Occidente è portatore ha manifestato stavolta i suoi effetti in USA, ribaltando temporaneamente il ruolo di vittima e carnefice. Senza addentrarmi in interpretazioni teleologiche dell'accaduto, le considerazioni più immediate che mi saltano in mente sono: perché Bush non si dimette e non si dimettono con lui il capo della CIA e il ministro della difesa? È davvero solo colpa dei talebani e di Bin Laden o del terrorismo? È un'eresia ribadire ancora lo slogan fuori l'Italia dalla NATO? E in tutto questo, noi donne... Abbiamo assistito al verificarsi di un evento che, ancora una volta, cala dall'alto da parte di chi la storia con la S maiuscola la fa, non la subisce, cioè dei maschi, gli unici detentori del potere. E ancora una volta assistiamo all'attuarsi dei meccanismi sacri del potere. Negli USA è compito del presidente, quale capo delle forze armate, garantire la difesa e la sicurezza dei cittadini. Se non vi adempie o non si dimostra in grado di farlo, dovrebbe dimettersi e lasciare il posto a chi per lui. Ma i politici sono una razza a parte, non devono rispondere concretamente del loro operato e della loro incompetenza ai comuni mortali. Il loro è un ruolo sacro, intangibile ed ingiudicabile dagli elettori sudditi. Gli eletti, potenti dunque, non devono mai rispondere del loro operato ai cittadini, nemmeno nei casi di incapacità evidente. E ciò risulta ormai talmente ovvio che a nessuno è saltato in mente di chiedere dimissioni di Bush. Altro meccanismo della sacralità della cultura maschilista del potere è il creare contrapposizioni biunivoche, diadi, bello brutto, buono cattivo, maschile femminile, eccetera. E davanti ad una tale catombe, quale contrapposizione più facile che ricercare un nemico, il cattivo, su cui convogliare le ire della gente per continuare indisturbato a funzionare? Il cattivo è Bin Laden, ma chi lo ha finanziato? Sono i talebani, eufemismo per indicare i musulmani in toto. È il terrorismo. Distruggiamoli, e vivremo in pace, felici e contenti. Stesso discorso, a parte invertito, vale per gli integralisti. Quali sono gli strumenti del potere? Il principale, più tremendo, è il dominio sul corpo dei sudditi e la facoltà di gestirlo a piacimento. Il modo più diretto per disporne è la guerra. Quindi si mobilitano gli eserciti NATO da una parte ed estremisti religiosi dall'altra. Domanda, ma l'ONU ancora esiste? Da ultimo, e in tutto questo, le donne che ruolo hanno? Ma chiaramente il solito, da sempre, cioè nessuno. Le donne sono escluse dal potere, non lo detengono, lo subiscono. Abbiamo subito l'ennesima dimostrazione di forza maschilista del potere, con tutte le sue manifestazioni tragiche ed assurde. Riusciremo dunque ad affermare una nostra linea razionale e dialettica? E allora, per cominciare, fuori l'Italia dalla NATO, o meglio, fuori le 13 basi NATO dall'Italia. C'è bisogno di inventare una nuova cultura, la cultura, che prescinda dai significati simbolici maschili su cui la nostra è fondata, e ponga la donna non più alla base di questa costruzione opprimente, ma finalmente come soggetto di valenza autonoma, pienamente indipendente. Yeah. Ed era Gianna Nannini con Revolution. E adesso, ricollegandoci al pezzo scritto da Claudia, vi vogliamo leggere una petizione che è il prodotto di una assemblea dell'Associazione Federativa Femminista Internazionale AFFI, proprio riguardo ai fatti afghani. Questa petizione è stata inviata al segretario dell'ONU Kofi Annan e per conoscenza ad una serie di altri organismi. Ne citiamo alcuni: la Commissione dei diritti delle donne del Parlamento Europeo, il Ministro degli Esteri italiano, il Ministro degli Esteri dell'Unione Europea, Xavier Solana, qui ovviamente ridono tutte, ovviamente è chiaro. Benissimo, vi leggiamo la petizione, che è appunto un appello petizione. Vi ricordiamo che se vorrete firmarlo potrete recarvi presso il Buon Pastore in via San Francesco di Sales 1B tutti i giorni dopo le 20, ad eccezione della domenica e del lunedì. E adesso ve la leggiamo. Gentili signori, ci rivolgiamo a voi per gli importanti incarichi che ricoprite, anche per la probabile costituzione di un nuovo governo in Afghanistan che sostituisca l'attuale regime dittatoriale e fondamentalista dei talebani. Facciamo cortesemente osservare che tutti, esclusi i talebani e i loro sostenitori, riconoscono che un tratto fondamentale di detto regime è la situazione di oppressione totale in cui sono tenute le donne. Taluni, prima su questo silenti, fanno persino discendere la necessità dei bombardamenti per liberare le donne dal burqa. Ricordiamo che da anni, quasi soli, i movimenti femminili e femministi hanno chiesto diritto e libertà per le donne afghane. Chiediamo comunque ora a tutti i vecchi e nuovi sostenitori delle donne afghane che, per amore di coerenza e stante il prezzo terribile cui il mondo è sottoposto per l'attacco terroristico e le altre manifestazioni di guerra che ne conseguono, si tenga conto nel costituire il nuovo governo provvisorio dei diritti fondamentali delle donne come previsto, oltre che dalla ragione umana e civile, dalle numerose conferenze ad hoc dell'ONU e della Carta dei diritti umani. Chiediamo che sia affermato il diritto all'inviolabilità della persona, abolite le atroci pene corporali e la pena di morte. Nell'ambito delle libertà democratiche si è esplicitamente assunto il compito di assicurare pari diritti ai due sessi nel campo dell'istruzione, del lavoro, della salute e del patrimonio, la libertà di movimento e nella scelta del matrimonio e dell'abbigliamento, la tutela della maternità. I gruppi e movimenti delle donne afghane rifugiate in Pakistan, a cominciare dai gruppi Rawa e Auka, che chiedono libertà e giustizia, siano inseriti come parte attiva nella trattativa per un governo che riguarda innanzitutto la loro vita. Chiediamo che il nuovo governo non sia la fotocopia del precedente, che ha alla base il razzismo sessuale. Il mondo ha bisogno, per trovare le vie stabili della convivenza e quindi la modalità della soluzione pacifica dei conflitti, non del fondamentalismo, ma della presenza politica e dell'esplicita mediazione femminile. Le sottoscritte, sentendosi direttamente coinvolti, condividono il dolore, l'angoscia e la paura delle donne americane e la necessità di un'iniziativa forte e coordinata contro il terrorismo assassino di innocenti. Chiedono, conoscendone il tragico peso, che si sospendano i bombardamenti sulle città afghane e si aiutino le profughe e i profughi per assicurar loro la vita. In questo scenario di morte e di dolore che la follia di un genere riproduce incessantemente, non è possibile non denunciare anche l'offesa cruenta portata dalla presenza dei carri armati nelle città palestinesi e dire ai due popoli: si dialoghi, si dialoghi, si dialoghi. Sperando che il mondo finisca di produrre e consumare armi, vi auguriamo buon lavoro e ci firmiamo l'Assemblea Aperta dell'AFFI del 22/10/2001 a Roma, nella Casa Internazionale delle Donne. I'll wait for you again. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista autogestito sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. E per mettervi in contatto con noi potete farlo attraverso il nostro telefono fax, anche segreteria telefonica, allo 0668 64201 tutti i mercoledì dalle ore 21 in poi. Oppure potete utilizzare le vie telematiche scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica clrbp@hotmail.com e ancora attraverso il classico servizio postale scrivendo a Coordinamento Lesbiche Romane presso la Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B a Roma. Siamo in attesa ovviamente di ogni vostro tipo di collaborazione, potete scriverci per chiederci informazioni di qualunque tipo o per farci sapere le attività che svolgete, per dire la vostra opinione su avvenimenti, film, libri o comunicarci tutte le iniziative di cui siete a conoscenza. Non lasciatevi quindi sfuggire l'opportunità di essere presenti facendo sentire le vostre idee, i vostri pensieri e le vostre emozioni. In un mondo che vorrebbe cancellarci, sommergendoci sotto un mare di silenzio, gridiamo il nostro esistere. Fai sentire la tua voce. Collabora con il Coordinamento Lesbiche Romane alla trasmissione È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. E adesso ascoltiamo il pezzo Nelly Furtado, Baby Girl. We're all sorry now. I didn't mean to wow. Make you cry like that. It's just a little bit. Still, I want you to know. Though I love you so. It's mostly me dreaming. Forcing believing that you're an idea. E rieccoci nuovamente insieme, speriamo che questo pezzo vi sia piaciuto, a noi naturalmente è piaciuto molto e se è così fatecelo sapere con i consueti trillini che dobbiamo dire ci accompagnano spesso durante le nostre trasmissioni, che ci fanno sentire meno sole, quindi grazie in anticipo e trillate pure senza parsimonia. Per inciso ci dobbiamo scusare questa sera con la compagna, la nostra ascoltatrice che la scorsa settimana ha telefonato qui in radio, con la quale avevamo appunto un appuntamento telefonico al Buon Pastore, purtroppo per cause di forza maggiore non abbiamo potuto tenere fede a questo impegno, quindi se hai telefonato noi ci scusiamo veramente, se non hai telefonato ti preghiamo di farlo prossimamente. E veniamo finalmente a noi. Come forse sapete, anzi come sicuramente sapete, qualche tempo fa abbiamo presentato in questa stessa trasmissione il bel libro di Yves Ensler, I monologhi della vagina, di cui abbiamo letto anche qualche brano. Vogliamo riparlarne stasera perché, come era già accaduto in marzo al Teatro Argentina, i monologhi sono ritornati sul palcoscenico a Roma, stavolta al Teatro della Cometa. Andranno in scena fino al 4 novembre. Con la regia mi comunicano che sono arrivati i trillini, vi ringrazio veramente moltissimo, siamo emozionatissime. Via. Complimenti per la trasmissione, su via. Dunque, dicevo, Caterina non sghignazzare, andranno in scena i monologhi fino al 4 novembre con la regia di Emanuela Giordano e si sposteranno dal 6 al 18 novembre al Teatro Vittoria, dove ci piace ricordarlo una delle protagoniste sarà la nostra bravissima Dodi Conti. I monologhi della vagina sono il prodotto del lungo lavoro di Yves Ensler, una femminista americana che gira il suo paese tenendo corsi di autocoscienza corporea per insegnare alle donne a prendere coscienza, confidenza e affetto con la propria vagina, senza considerarla più una semplice parte del corpo, ma il fulcro stesso della propria vita. I racconti di più di 200 intervistate dalla Ensler sono quindi diventati dapprima un libro e poi uno spettacolo teatrale, la cui prima rappresentazione avvenne in un teatro off-Broadway a New York con protagonista la stessa autrice del testo. Dopo aver vinto con questo spettacolo il prestigioso Obie Award, la Ensler organizzò una serata di beneficenza che chiamò Vagina Day per raccogliere fondi per le associazioni che lottano contro la violenza alle donne. Da quel momento la pièce ha fatto il giro del mondo, arricchendosi sempre più di nuove testimonianze, a volte terribili e a volte ironiche. Nel testo che in questi giorni va in scena nei teatri di Roma si distinguono vari livelli di lettura, primo fra tutti la denuncia dei crimini e degli abusi perpetrati ai danni delle donne, come le violenze dei Taliban, ma anche gli stupri etnici di Bosnia o semplicemente quelli di natura, fra virgolette, per così dire, occidentale, a cui assistiamo ogni giorno, o ancora le mutilazioni del mondo islamico. Ma c'è anche la rivendicazione della natura e della sessualità femminili simbolizzate dalla vagina e infine un ultimo livello che sdrammatizza e alleggerisce la politica della vagina, come la stessa Ensler sostiene, con una serie di situazioni surreali, esilaranti ed ironiche. Quindi ci sarà da ridere e da piangere e se ancora non l'avete fatto vi invitiamo a seguire questo bellissimo spettacolo che è insieme un atto di denuncia ed una celebrazione della solarità e della gioia delle donne che riprendono possesso del proprio corpo. E adesso vi facciamo ascoltare un brano musicale molto bello, si chiama Dido ed è tratto dall'album No Hangel. See ya with her. Smiling clean. Allora, quello che avete ascoltato era un brano della cantante Dido, e invece il brano successivo, questo, è questo che sentite in sottofondo, è di un gruppo di sole donne che si chiama Bond. E adesso andiamo con un po' una serie di notizie. Durante il Sinodo dei Vescovi e sul ruolo dei Vescovi tenutosi a Roma all'inizio di ottobre, una delle cinque reverende ammesse come auditorio, Suor Mary Suvita Kallupurakkattu, ha fatto inorridire con il suo intervento i quasi 300 signori della Chiesa presenti all'importante manifestazione religiosa. Alla presenza del Papa, Suor Mary, sconosciuta agli eminentissimi vescovoni e cardinaloni presenti, anche se superiora generale delle suore di Nostra Signora con le loro 292 case e 2.618 religiose, ha osato richiedere un maggiore spazio, un ruolo più incisivo per le donne all'interno della Chiesa. Inutile dire che l'applausometro posto nella sala, che registrava il livello di gradimento degli interventi, non si è spostato dallo zero, cosa che peraltro non ha intimorito affatto la religiosa, che ha affermato, con piglio femminista, che le religiose, che sono più del doppio dei vescovi, cardinali, diaconi e sacerdoti, devono essere viste ed accettate come molto più che forza lavoro nella Chiesa, e che si è sensibile alle condizioni delle donne dal momento che il Papa ne sostiene la qualità e il genio. Scusate, che se si è sensibili bisogna individuare quali sono le vecchie strutture da abbattere e quali le nuove da creare per assicurare un maggiore potere alle donne della Chiesa. La reverenda ha infine aggiunto che le religiose sono una forza straordinaria spirituale e apostolica, e che la Chiesa del terzo millennio vibrerà con nuovo vigore e speranza se guarderà se stessa attraverso gli occhi delle donne. E chissà che seguito avrà la storia di questa Suor Mary. Ad ogni modo, mentre aspettiamo di sapere che cosa succederà, potete sempre leggere questo libro che è stato presentato alla Fiera di Francoforte. È un libro scritto da un uomo, ma ve lo presentiamo comunque. Si chiama Il segreto di Hitler, la doppia vita di un dittatore, e l'autore è Lothar Machtan, docente dell'Università di Brema, il quale sostiene l'omosessualità del Führer. Lo storico, ripercorrendo la gioventù del dittatore, rintraccia una lunga serie di amicizie erotiche maschili che proseguiranno negli ambienti fascistoidi di Monaco di Baviera. Tra i suoi amici intimi figura addirittura Rudolf Hess. Sembra invece che il gerarca Ernest Röhm, notoriamente omosessuale, fosse fra i pochissimi del gotha del nazismo a conoscere le inclinazioni del Führer, e proprio per questo fu fatto assassinare dallo stesso Hitler, che lo riteneva in possesso di documenti compromettenti. Come dire, buon sangue non mente. Trent'anni fa, nell'aprile del 1971, nasceva a Torino il gruppo Fuori, Fronte Unitario Omosessuali Rivoluzionari Italiani. I suoi fondatori furono tra i primi protagonisti di importanti lotte antidiscriminanti. Proprio in concomitanza con questa data è sorta l'esigenza di riorganizzare quel movimento con lo stesso nome e di rilanciare le lotte laiche, liberali e libertarie che già all'epoca esso portava avanti. Il primo incontro si è svolto a Milano il 20 e 21 ottobre. Al momento non possediamo ulteriori notizie, ma speriamo di riceverne al più presto e di potervele comunicare. E il circolo lesbico Drasticamente di Padova, l'Arcigay Dedalo Gay e Lesbica di Firenze, il GLO di Padova, il settore gay e lesbiche dell'Ente Nazionale Sordomuti, il circolo Pink di Verona ci hanno inviato una lettera aperta al movimento per una proposta di laboratorio gay, lesbico, bisessuale e transgender nazionale di cui vi leggiamo il testo. Lo chiamiamo un movimento, il nostro, e in parte lo è, ma noi sappiamo che è un arcipelago di realtà, di pratiche, di esperienze, di voci, di soggetti molto diversi, spesso diffidenti, talvolta in contrasto. Ogni pezzo di questo arcipelago sembra considerarsi autoreferenziale e autosufficiente. In questo arcipelago si parla, ma troppo sovente si sussurra. Eppure molte cose sono successe e stanno succedendo intorno ed in mezzo a noi, per non sentire il bisogno davvero ineludibile di costruire una riflessione collettiva su quale movimento, quale comunità, quali obiettivi e quali progetti mettere in campo nel nostro paese. Il World Pride 2000 di Roma è stata la più grande manifestazione per i diritti civili che questo paese abbia mai visto. Ha apertamente rivendicato laicità dello Stato e diritti gay e lesbiche come diritti di cittadinanza universali. Per una volta ci ha davvero fatto sentire movimento e soprattutto comunità. Ma esiste una comunità gay, lesbico, bisessuale e transgender? E che rapporto ha con il movimento? Dopo l'euforia del Pride, il movimento non ha saputo dare un seguito a quella spinta momentanea. I Pride di quest'anno hanno posto interrogativi sulle modalità e sulla visibilità delle piazze gaie, sugli obiettivi politici, progettuali e culturali del movimento, sul rapporto davvero irrisolto in questo paese tra movimento politico gay, lesbico, bisessuale e transgender e un settore commerciale che affascina ed inquieta, necessita e respinge. La cresciuta rappresentanza parlamentare non compensa la perdita di terreno nelle pratiche di movimento ed il governo uscito dalle ultime elezioni fa presagire d'altronde delle involuzioni rispetto ai nostri temi di confronto. E poi Genova. Molte e molti di noi c'erano. Molti circoli hanno aderito al Genoa Social Forum e ai forum locali, perché globalizzare i diritti, la cittadinanza, la libertà, la dignità contro la globalizzazione della miseria e dell'esclusione sono anche i nostri obiettivi. Ci chiediamo quali spazi civili, sociali e culturali apre il movimento dei movimenti per le nostre istanze, quali contenuti e quali contaminazioni possiamo portare nei forum sociali, in quali forme possiamo stare dentro quel movimento. A partire da queste considerazioni ci interroghiamo sulle nostre forme di battaglia politica, sulle capacità di essere e di fare movimento, su come aprire conflitti, sui limiti del lobbismo, sul futuro dei diritti di cittadinanza. Questo è un appello perché crediamo di dar voce ad interrogativi che attraversano l'arcipelago gay, lesbico, bisessuale e transgender. Questo appello viene da noi, realtà gay e lesbiche, con storie, biografie politiche e culturali molto diverse, ma che hanno lavorato e stanno lavorando assieme su progetti e iniziative. E siamo orgogliosi di esserci riusciti proprio perché abbiamo trovato un metodo, un percorso fondato sul rispetto reciproco e sul bisogno dell'altro da sé. Per questo noi lanciamo la proposta di un laboratorio gay, lesbico, bisessuale e transgender nazionale che potrebbe tenersi a Roma a metà novembre. Un luogo visibile, aperto, libero, che ragioni sul movimento a tutto campo. Un forum sociale delle comunità, dei gruppi, delle organizzazioni, delle associazioni, delle riviste, delle ricercatrici e dei ricercatori gay, lesbico, bisessuale e transgender. Una forma di consultazione, di confronto, di dibattito, di costruzioni, di relazioni che magari riesca a darsi obiettivi e progetti concreti, che riesca a squadrarne un'agenda. Insomma, abbiamo la presunzione che possa diventare un punto di partenza per una nuova stagione gay, lesbico, bisessuale e transgender in movimento. La data dell'incontro sarebbe sabato 10 e domenica 11 novembre 2001. Orari e luoghi seguiranno in un secondo tempo. Per informazioni rivolgersi allo 047 no scusate Sì, scusate, per le informazioni vi potete rivolgere alla posta elettronica del GLO di Padova e vi diamo l'indirizzo glopadova@tiscalinet.it. Scusami. Il brano che state ascoltando chiaramente si intitola Victory e adesso vi salutiamo e vi lasciamo con la nostra sigla finale. Ciao a tutte e grazie per essere state con noi. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it.